in cui dobbiamo, che dovrebbe essere un processo di inclusione all'interno della nostra società, che porta verso un pluralismo culturale. Io penso che soltanto attraverso la forma di pluralismo culturale, allora lì potremmo parlare di convivenza. Perché ci sono due fattori importanti: pluralismo culturale e conoscenza reciproca fra i popoli. Se mancano questi due, è inutile parlare di convivenza, perché la convivenza salta, perché non ci conosciamo. Ma molto spesso alcune reazioni sono determinate da una non conoscenza, perché l'immigrato viene guardato con un certo occhio. Molto spesso non ci troviamo il tempo per poter dialogare e quindi ognuno rimane nella sua posizione, ognuno cerca di conservare, diciamo, la sua cultura interna. Allora molto spesso da lì allora si parlano di comunità. Io quando anche sento parlare di comunità, diciamo, all'interno, che sono dei nodi che vivono all'interno della comunità, ma io penso che la comunità in realtà esiste soltanto nell'immaginario. Su questo anche Galissot, ricordo in uno dei suoi libri, ne ha parlato a lungo, perché esiste nell'immaginario, perché all'interno della comunità esistono scontri e divisioni, quindi non è una comunità. Allora che cosa è successo? Se ogni comunità si racchiude dentro di sé, cercando di usare soltanto la sua forma culturale, non c'è interazione. Quindi noi potremmo convivere in questo paese per 150 anni, ma non ci sarà mai questo processo di interazione. Io penso che noi abbiamo bisogno di uscire dai vari ghetti che ci siamo creati. Ma su questo chiamo anche in causa le istituzioni, che hanno un grosso ruolo di responsabilità verso questo. Ma che cosa succede? Ma io dicevo l'altro giorno, io sono un pessimista di natura. Io ormai su tutte le cose avevo perso ogni speranza. Ma forse soltanto dopo Genova mi sono risvegliato. Dopo Genova mi sono risvegliato perché ho una grande fiducia ora verso questi giovani. Io penso che con loro, se noi gli diamo gli strumenti che servono, possiamo veramente costruire una società nuova, ma sia dall'aspetto culturale e anche tanti altri aspetti che ci ruotano intorno. Però occorrono strumenti e meno chiacchiere. Purtroppo che cosa succede? Io penso che a livello nazionale Firenze è uno dei terreni più difficili, ma molte iniziative cominciano a muoversi da quando c'è Portofranco. Ma io ricordo quando c'è stata la vecchia consulta, Moreno qui se lo ricorda, ma tantissime cose nel passato, ma si fanno con molta fatica. Dopo anni di discussione, di retorica, senti sempre i soliti discorsi logoroici, quindi uno viene anche lì, si pilla i giornali che intanto dicono sempre le stesse cose. Alla fine uno non ci va più nemmeno volentieri, perché a volte serve la pragmaticità, pochi discorsi e cercare di arrivare al sodo. Perché anche per quello che riguarda, se si lascia da parte un attimo il discorso culturale, guardando bene il discorso dell'immigrazione, ma si fanno tante teorie, tante chiacchiere, ma se si va a guardare le cose toccandole papale, senti proprio che è vuoto. E purtroppo io con l'arrivo, diciamo, anche di questa nuova giunta che c'è a Firenze, purtroppo le cose anche sono peggiorate. Anche chi tenta di fare qualche cosa, dei piccoli passi, ti mettono subito una barriera davanti. Questa nuova giunta, per quello che riguarda l'immigrazione in generale, almeno che io sappia, non vedo quello che ha fatto. Sì, ti parlano di qualche posto letto in qua e in là, ti parlano di iniziative molto sparse nel territorio, però sono molto furbi. Perché quando vai a parlare con loro non ti dicono mai di no, ti dicono sempre sì. Sì, bello, però tutto rimane sì, bello. Non c'è mai qualche cosa che tentano poi di realizzare. Ma ritornando a noi, Ma io quando dico noi, ci metto tutti, non uso il concetto noi come soltanto noi immigrati. Perché l'immigrato che ormai vive qui da tantissimi anni, che la si vuole o no, appartiene alla società. Quindi questa nuova forma di creazione culturale del noi, ci siamo tutti noi, perché viviamo nello stesso territorio, quindi bisogna inventarsi questa nuova forma. Però inventarsi, attenzione, perché cosa succede molto spesso in Europa? Perché l'Europa, lo sbaglio che fa, crede di avere, anche ascoltando il Presidente del Consiglio, ultimamente si capisce bene, molto spesso anche, diciamo, alcuni tipi di ragionamenti, credono di avere una cultura talmente superiore che deve essere un modello di esportazione. Di esportazione. Ma molto spesso anche all'interno dell'associazionismo, quando ti ci metti a parlare, ti arrivano alcuni segnali che bisogna stare attenti. Se dobbiamo costruire, diciamo, questa nuova cultura, tutte le culture devono essere uguali. Non c'è una cultura superiore e una cultura inferiore. La cultura che pensiamo, la cultura occidentale, vale, è uguale alla cultura dei aborigeni, è uguale alla cultura degli Inca, se lo vogliamo. Ma se invece noi dobbiamo partire con i presupposti che la civiltà, la nostra cultura è all'avanguardia, inutile mettersi intorno a un tavolo, perché si parte già con il piede sbagliato. E molto spesso in Europa succede questo. E io non accetto il termine esperto di una certa cultura africana oppure sudamericana o asiatica. Perché chi meglio del sudamericano e del cinese conosce la sua cultura? Sì, io posso essere d'accordo che mi dicono è un grande studioso, conosce tantissimo, diciamo, la cultura asiatica. Ma quando vedo che mi parlano di esperto di questo mondo, io metto subito le mani avanti. È la stessa cosa. Ieri guardavo Santoro, c'era questo politologo, un deve essere uno della chiesa, non mi ricordo, Bagge si chiama. Ma sono costretto a guardarlo, perché devo sentire che cosa dice. Devo capire che cosa pensa, che cosa ha in mente. Almeno chiudi gli occhi. Poverino. Però anche lui volevo. No, ma ti sei confuso perché era tutto vestito di nero anche lui. Quindi vedo gli sbagli che fanno. Vedo gli sbagli che fanno, perché si autodefiniscono esperto di, ma anche guarda, la storia ci insegna tantissime cose. Il perché del fallimento della politica agraria in varie parti del mondo? Ma come si fa? Uno che non è mai uscito, un ingegnere di campo di Marte, sì, sarà un bravo forestale, conoscerà bene attraverso gli studi alcuni fattori di clima tropicale, ma se io lo porto me la porto nella mia giungla, la sua politica fallisce perché non la conosce quella zona. Fallisce. È la stessa cosa di moltissimi esperti che dicono di esperti culturali. Ma di Lanfranco, della mia cultura, che cosa ne sai? Sì, puoi leggere sui libri sul Senegal oppure sul Sud America che questo. Ma la vera cultura la conosco, ne conosco una parte, perché essendo anche di quella zona non è detto che io conosco molto bene quella cultura. La stessa cosa succede, io se cerco di definirmi un esperto, diciamo, della cultura occidentale, sì, delle cose li so, e se si guarda bene molto spesso partiamo con un grosso punto di vantaggio. Perché lo dico questo? Noi siamo stati sotto il dominio dei francesi per tantissimi anni. Quindi che cosa è successo? Loro cercavano di farci un lavaggio del cervello. Voi non avete una cultura, oppure la cultura che avete non è valida. Allora hanno cercato di inculcarci in testa tutta la cultura francese. Quindi noi, io ricordo alle elementari, si cominciava già, ci insegnavano tutta la storia dei galli, tutta la storia della rivoluzione francese. Ma io per quello che riguarda la storia francese, sfido qualunque francese, perché sono sicuro che la so meglio di lui. Ma se a me mi fai una domanda sulla cultura africana, mi metti in crisi. Perché all'interno del sistema scolastico, la parte che riguarda la letteratura, la storia, la geografia africana, non le insegnavano. Ma ci insegnavo tutto il discorso della crisi del papato, il periodo di Avignone. Madonna santa. Quindi sono tutti fattori che, se uno poi dopo non sta attento, entra una grossissima crisi. Ecco perché dico, partiamo con un punto di vantaggio, perché noi prima di arrivare qui sappiamo tutte queste cose. E poi, essendoci stati, diciamo nel passato, essendoci stati parecchi occidentali, perché soltanto una città come Dakar, dove fino agli anni 70, quando eravamo ragazzini, era una città di 700-800 mila abitanti, ma fai conto che metà, 400 mila, erano occidentali. Io andavo a scuola con ragazzi francesi, tedeschi, inglesi, quindi anche ci raccontavano sempre di questa Europa, quindi moltissime cose la sapevamo di già. E quindi noi partiamo con questo punto di vantaggio, ma non è detto che siamo esperti, diciamo, di questa cultura, perché quelle che so l'ho visto soltanto attraverso i libri, e molto spesso quello che succede sul terreno è completamente diverso. La stessa cosa, se la vogliamo, in varie parti del mondo, quando si parla di etnicizzazione, è data lì, perché quando sono arrivati gli etnologi in Africa, che cosa succedeva? A parte che erano in combutta con l'amministrazione coloniale, perché era tutto legato a un discorso di tasse. Allora andavano a nord, vedevano lì, erano magri, avevano il naso più stretto, più fine, più chiaro di pelle. Allora scrivevano l'etnia dei Peul. Si spostavano in centro, vedevano lì, trovavano proprio il tipo negroide come me, col naso tosto. Quindi, allora dicevano, questi è l'etnia Wolof. E così via dicendo. Ma io a volte penso, io sono un etnologo, ora vado in giro per l'Italia. Comincio da Bergamo. Comincio il bergamasco, con il suo dialetto, le sue tradizioni, l'etnia bergamasca. Allora mi sposto giù. Allora arrivo a Bologna, sento il romagnolo e le sue tradizioni, l'etnia romagnola, quindi via comincio a etnicizzare tutta l'Italia. Quindi questi sono tutta una serie di cose, di sbagli che abbiamo fatto nel passato. Ma oramai il passato, quindi, ci deve insegnare, deve servire di lezione. Perché dico dobbiamo costruire un modello nuovo? Perché noi dobbiamo dare un nuovo strumento, la nuova valorizzazione delle culture. Perché chi ha conosciuto l'Italia 20 anni fa, prima dell'arrivo degli immigrati, sull'immigrazione si sapeva poco o nulla. Ora tantissime cose la gente li sa, perché hanno amici immigrati, ci sono tantissime iniziative culturali. Quindi pian piano le cose stanno venendo fuori. Quindi noi dobbiamo costruire questo nuovo modello per la società di domani, di questi giovani. Perché i giovani, che lo vogliamo o no, i giovani non hanno problemi, ma lo vedo anche nei ragazzini. Molto spesso, anche se hanno delle difficoltà linguistiche, ma riescono a creare un loro linguaggio, una loro comunicazione fra di loro, finché non arrivano i genitori. Se arrivano i genitori succedono i guai. Molto spesso vedi anche un bambino italiano oppure un cinese si mettono a giocare fra di loro tranquillamente. Ma come si sa che l'Italia, le mamme come sono? Lo dico perché ho avuto una mamma italiana a 18 anni e vedo come sono lì sui figlioli. Appena trovano questi bambini che giocano subito, arrivano subito e portano il figliolo, magari perché hanno paura che li attacchi chissà quale malattia. E quindi sono tutte, diciamo, una serie di ostacoli da superare per inventare questa nuova forma. E questa nuova forma, perché a me la Spagna piace moltissimo? Perché quando vado a Cordoba oppure a Granada, tutte le volte che sono andato, vedevo questa crocevia culturale. Tutta una serie di culture che si sono incrociati, anche se sono scrociati, si sono scontrati, ma hanno lasciato veramente delle cose splendide. Hanno lasciato veramente delle cose splendide. Noi penso che dobbiamo arrivare a questo nuovo tipo di modello. Ma se noi rimaniamo, Firenze, finché ci sarà Paolucci, sarà difficile fare qualche cosa. Questo ne sono convinto. Perché lui sempre questa Firenze del 500, questa Firenze del qui, ce l'ha mena, ce l'ha mena. Non esiste nessun altro tipo. Ma molto spesso anche quando vedi, passeggiando per le vie fiorentine di sabato, a volte vedi dei gruppi di sudamericani con degli strumenti, si mettono davanti a un negozio, ma suonano anche della bella musica. Ma sappiamo che anche è una città molto bottegaia Firenze. È una città bottegaia, non c'è verso di poter fare qualche cosa. Questi musicisti che chiaramente portano un certo modello di musica nuova, ma sono lì, non danno noia a nessuno. La prima cosa che fanno, chiamano la polizia. Dopo 5 minuti c'è la polizia e i vigili che le manda via. Ma se guardiamo il mercato porcellino, lasciamo perdere il discorso della vendita, ma porcellino era diventato un luogo di moltissimi fiorentini ci andavano, ma non è che ci andavano per comprare qualche cosa, era diventato un luogo di incontro dove parlavano con questi ragazzi, gli chiedevano dell'Africa o gli chiedevano di tanti altri. Quindi era diventato un luogo di dialogo. Boom chiuso dell'amministrazione comunale. Non mi sorprende perché c'è Cioni, dovunque passa c'è casino. C'è nulla da fare, purtroppo queste cose lo dico ridendo, ma se ci pensi bene, ma ti viene da piangere. Qui non si può fare perché c'è Cioni. D'altra parte c'è Paolucci, il custode della cultura del 500. Da un'altra parte il comune ti dice sì, ma non fa mai niente. Quindi io penso che stamattina al Social Forum, quando suonava il gruppo napoletano, a un certo punto sono arrivati un gruppo di... erano tante famiglie arabe che occupano le case di via Paesello. Allora hanno cominciato a cantare l'arabo su un ritmo napoletano, una cosa splendida, bellissima. Quindi ormai abbiamo anche uno strumento partendo da questa base. Io credo che anche all'interno, non è che sto facendo una pubblicità al Social Forum, quindi queste forme, diciamo, di aggregazioni, inventarsi la nostra strada dove possiamo stare insieme, mettere le cose insieme. Quando ti ricordi Papa cantava cantare italiano sul ritmo mandingo? Ma una cosa bellissima. Ecco, quando parlo di invenzione di una nuova cultura, mi riferisco a queste cose. Perché su questo io sono convinto che noi riusciremo a costruire un nuovo modello culturale che sarà divertente, e sono convinto che ci guadagneremo tutti. Ma finché noi abbiamo una nostra cultura, e diciamo noi, voi avete la vostra cultura, diciamo voi altri, noi altri, diciamo questa cosa, questa forbice si allarga sempre. Ed oggi dobbiamo rifiutare questo nuovo modello che sta venendo fuori, perché non ci può essere una cultura universale. No, assolutamente no. Le diversità sono belle, ognuna con la sua cultura, cercando di metterli insieme, ma una cultura unica, universale, come cercano, ieri forse non mi ricordo Agnoletto che ha accennato qualcosa del genere. Ecco, quando l'ha detto, ecco, sì, lì bisogna anche battersi, perché i potenti del mondo, noi sappiamo bene ciò che sono in grado di fare o no. E se noi non ci prepariamo sin da adesso, a parte lì è un terreno molto più difficile, non vedo come potranno inventare questo nuovo modello che sarà universale per tutto il mondo. Già sarà molto più difficile, perché ci saranno barriere linguistiche e culturali molto difficili da superare. Quindi, partendo dalla base, inventandosi una nostra forma, allora soltanto lì potremmo parlare di un pluralismo culturale. Io penso che il pluralismo culturale sia una ricchezza per tutti, non soltanto per il paese che ospita, ma per l'immigrato stesso anche. Quindi è una ricchezza che noi dobbiamo sfruttare e tramandare, diciamo, alla nuova generazione. Perché c'è un altro problema che sta venendo fuori ora in Italia, che la Francia ha già superato. Non perché sono più intelligenti, perché loro hanno un'immigrazione che è data ormai dal dopoguerra. Invece noi è una cosa recente, quindi non si può parlare di generazioni di immigrati in Italia. Il distacco generazionale. Ora si comincia a vedere pian piano questi fenomeni, specialmente dai somali che sono stati i primi arrivati qui, i primi, diciamo, di altre comunità straniere, di altre associazioni, diciamo, di immigrati. Il distacco generazione e questa crisi di identità si cominciano a vedere. Bisogna colmare questo con questa nuova forma che noi dovremmo andare a inventare per poterli trasmettere a questi giovani. Perché se no succederà la stessa cosa di Bluebirds, come dicono a Parigi. Se noi andiamo nella periferia, ma è una cosa allucinante. Sono dei giovani che di cultura, di valori, ripeto come avevo detto all'inizio, non sanno niente. Ed è una zona che di notte meglio non metterci piedi, perché rischi anche ti fanno fuori. Visto che noi abbiamo conosciuto quel modello, noi dobbiamo evitare di formare un altro gruppo per quello che ci riguarda. Ma su questo lo Stato e le istituzioni devono essere presenti. Noi li dobbiamo incalzare, perché molto spesso le nostre amministrazioni sono miopi. Eppure o questo o c'è un tipo di razzismo istituzionale. Io ci vado molto cauto quando parlo di questi concetti. Ecco perché anche non parlo di razzismo in generale, ma lo dico apposta di razzismo istituzionale. Perché anche molti strumenti che gli vengono dati per poter affrontare alcuni temi che riguardano sia la cultura altra oppure l'immigrazione vengono tralasciati. Così. E questo lo dimostra che molto spesso, in generale, quando si parla di immigrazione, ormai l'immigrazione non tira neanche. Per fare un dibattito sull'immigrazione siamo i soliti 5-6 persone. È solito lo stesso giro. Perché quando parli di immigrazione la gente subito ti fanno così. E gli amministratori stessi, avendo questi strumenti, non li usano. Ti trovi davanti a delle persone impreparate. La stessa cosa succede anche nella sanità stessa, perché oggi, mai come oggi, è necessario sviluppare l'etnopsichiatria. Ma se io ricordo bene, in Toscana non c'è neanche un etnopsichiatra. Quindi sono tutte varie forme di cose che dobbiamo prestare attenzione. Oh, Sciamano, da quanto tempo parlo? Vai. Tanto ormai è finito, no? Sì. Sono alla conclusione. E quindi io penso che sono tutti dei segnali che ormai sappiamo tutti. E diciamo, qui anche i nostri amministratori hanno una grande fortuna, perché l'associazionismo in Toscana è molto forte, sia del volontariato, sia quelli degli immigrati, oppure molte associazioni che si occupano di tale o tal settore. Quindi potersi confrontare con loro, creare delle cose. Ma stamattina mi veniva in mente il Consiglio Territoriale sull'immigrazione. Io non ci vado più, perché poteva essere uno strumento dove incontrarci, cercare di individuare tutta una serie di problematiche e risolverle insieme. Ma che cosa succede? Solo il prefetto Serra, solo lui parla. E quando parla, ti parla dei campi di detenzione. Allora che ci vanno a fare? Che Consiglio Territoriale di Immigrazione è? È solo lui. Io sono andato la prima volta con Mirania, quando ci parlava di campi, ho detto subito, noi ci trovi contro, a parte che a me non mi chiama più, anche quando l'hanno chiesto un incontro ha detto basta che non ci sia Papa. Quindi con tutta questa serie, diciamo, di organismi che dovrebbero affrontare tutte queste problematiche, oggi trovi un tipo come il prefetto, oggi trovi un tipo come Cioni. Eppure puoi trovare anche una persona sensibile, un lavoratore, ma gli mettono i bastoni fra le ruote. Ma anche se guardiamo il nostro assessore alla cultura, è una bravissima persona, ha voglia di fare tantissime cose, ma hai visto, l'hanno tagliato i fondi, li tagliano i fondi. E io sono convinto che lui alla prossima legislatura non, i DS non li metteranno lì dentro, perché loro non, hanno bisogno di persone cattive. E a volte quando ci penso dico, ma loro hanno bisogno, scusatemi del termine, quando ci vuole ci vuole, ci vuole proprio uno stronzo lì, ma una persona che sappia affrontare problematiche, che ascolti la gente, che è sensibile a molti fenomeni sociali, che dialogo con queste persone, non ce li vogliono. Purtroppo questa è la realtà. E molto spesso quando dico delle cose, guarda, non lo dico perché voglio dirlo così, ma molti problemi lo sappiamo perché lo viviamo giorno per giorno. Quando ti trovi di fronte a certi problemi, ma la gente non si può nemmeno immaginare con quali difficoltà ti riesci a muovere all'interno di questa giungla. Allora, ripartire da una base. Ultimamente abbiamo fatto tantissime iniziative culturali e vedo che la gente ci viene, la gente ha una certa apertura. Quindi sfruttiamo questo momento per poterci costruire questo nuovo modello che sarà il futuro del mondo di domani. Grazie.